Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Mio caro Francesco, siamo arrivati all'appuntamento numero 330. Sì, questo è il soundcheck di Radio 24 dal Groove Master Studio. Stiamo proprio agli ultimi giri di Boa, perché stiamo per chiudere. Chiudiamo a fine giugno, con l'ultimo weekend di giugno. Ladies and gentlemen, madame e messie, signore e signori, vado a presentarvi nello splendore del 3D Francesco Tromba. Buonasera a tutti. Ti è piaciuta questa presentazione contemporanea? Sì, forse un po' eccessiva, dai. Eccessiva, no, ma io ti vedo in 3D, ti posso anche toccare, anzi non lo faccio perché sei un po' costipato. Ma non sei raffreddato? Che morbo hai? No, è allergia, non so bene a che cosa, forse alla città. Alla città, ecco, però allora fai bene a raggiungerci, perché noi lo studio lo abbiamo qui in campagna, quindi forse un po' di aria pulita ti fa bene. Infatti quando vengo qua dopo neanche un'ora già sto meglio, forse anche merito della musica. Sicuramente merito della musica. Io direi di iniziare subito, Francesco, perché visto che siamo al penultimo sabato, oggi dobbiamo far sfogare tutti gli artisti rappresentativi per due categorie del Soundcheck Airplay Music Award, ovvero il nostro piccolo tributo ai suoni, alle band, alle composizioni che ci hanno accompagnato in questa stagione 2015-2016. E oggi tratteremo Best Song e Best Alternative Album. Vorrei dire però una cosa, mio caro Francesco, che quest'anno è stato più difficile suddividere alcune produzioni nelle varie categorie. Sì, categorizzare è stato molto più difficile in generale, perché comunque sono venute fuori delle produzioni, dei dischi che non sono facilmente scrivibili in una determinata categoria. Etichettabili. Esatto. Mm. Sono molto ellingtoniane, come si potrebbe dire. Sì, diciamo. Ci sono degli album che potrebbero tranquillamente stare anche nei negozi di dischi, negli scaffali, quelli del jazz, come del pop, dell'R&B, ma insomma questa è la musica che noi abbiamo promosso quest'anno al Soundcheck, tutta questa nuova ventata di artisti che propongono un nuovo tipo di fusion. Sì, ormai non esistono più i generi musicali, possiamo dirlo. E noi siamo contenti? Sì, abbastanza. Sì, siamo abbastanza contenti. Direi di partire allora per il Soundcheck Airplay Music Award con le nomination delle due categorie, ovvero Best Song, migliore composizione, e Best Alternative Album. Ecco, abbiamo identificato come Alternative Album proprio questo tipo di concept, artisti che hanno magari un background jazzistico oppure no, che suonano R&B oppure no, che suonano con sonorità indie oppure no, insomma delle cose che per noi è stato un po' più complicato, sarà anche difficile poi metterle nella nostra discoteca. Tu in effetti comunque utilizzi un più che altro un ordine alfabetico e un ordine qualitativo. Un ordine anche, no, perché le cose che non mi piacciono poi le metto da una parte, però come vedi adesso appena finiremo questa stagione toccherà mettere in ordine io non lo faccio sinceramente. Che fai, te ne vai? Non sono bravo ho capito, a mettere però in ordine. Tu pure hai messo un po' in disordine qua i CD. Sì, magari me ne rubo un po', dai, faccio un po' di prendi qualcosa. Diamo il via allora al che abbiamo detto Best Song. Sì, Best parliamo Song. Quindi di composizioni, vediamo le composizioni, i brani che abbiamo suonato di più, quelli più richiesti dai nostri radioascoltatori, quindi cinque? Sono cinque? Sì, sono cinque. Sono cinque, che facciamo? Li citiamo subito tutti e cinque? No, iniziamo col primo, dai. Iniziamo col primo, stiamo parlando di Ty Dolla $ign, anche questo è un personaggio che noi abbiamo conosciuto quest'anno, vocalist, R&B, soul, anche un po' rapper, compositore, producer di questo, anche un po' pop. Sì, un po' pop. Pop di qualità, però, diciamo. È proprio un omatopeico, eh? Sì. Allora, Ty Dolla $ign, la partecipazione di Babyface, il brano si intitola Solid, a noi è piaciuto tanto anche perché non c'è la batteria e questa è già una novità per una composizione R&B. In questa prima parte del soundcheck di oggi ascolteremo quindi le 5 canzoni in nomination per il Soundchecker Play Music Awards, ovvero i brani, gli artisti, gli album più interessanti di questa stagione che sta per concludersi. Termineremo quindi durante l'ultimo weekend di giugno. Ci siamo quasi, mio caro Francesco Tromba. Il brano era Solid, la voce di Ty Dolla Sign con Babyface, uno dei nostri brani preferiti, ma ce n'è un altro che noi abbiamo scoperto già da un po' di tempo e finalmente le King lo hanno inserito nell'ultimo album. Sì, infatti non è una composizione nuova, recente, è stata registrata già un po' di anni fa, è stata pubblicata solo ed esclusivamente su tracce online, non c'era un supporto fisico che conteneva questa composizione. Ma le King, due sorelle e un'amica, si sono fatte conoscere proprio con questo brano intitolato Supernatural, che naturalmente ce lo ritroviamo fra le best songs di questa stagione. Soundcheck, il suono della musica. E qui mi sento parte in causa, però lo dico, sono soddisfatto e contento di ritrovarmi in nomination come producer di Fans Low Ride e anche come co-composer di questo brano intitolato Next, qui al Soundcheck Radio 24 per il Soundchecker Play Music Award. Eh sì, era la voce di Alan Hampton quella che abbiamo ascoltato, molto bello questo pezzo, devo farti i complimenti, non sembra un pezzo scritto da te. No? No. Grazie, sei carino, sai, a volte viene fuori proprio quel peperoncino piccante che ti contraddistingue da calabrese. Sì, vanno dette le cose come stanno. Grazie. Beh, io però posso approfittare, visto che parliamo di Next, vorrei ringraziare uno dei più grandi creativi italiani, Felice Limosani, un mio carissimo amico, che ha realizzato per Next una clip in animazione 3D di 5 minuti e 16 secondi con un software, utilizzando un software che è poi quello che viene utilizzato dalla Pixar per i grandi cartoni animati. Sì, molto bello il video, devo dire, quando me l'hai fatto vedere la prima volta in anteprima mi ha commosso subito, è veramente dolcissimo, possiamo dire solo questo. Sì, io quando l'ho visto, quando Felice mi ha girato il video e ero da solo qui proprio nello studio, ho pianto, non ti nascondo, mi sono veramente commosso perché di una delicatezza e tenero, insomma non posso dire nulla, ma lo troverete senz'altro su YouTube, il video di Next per Fans Low Ride con la voce di Alan Hampton, un altro brano qui nella categoria Best Song per il Soundchecker Play Music Award. E direi, mio caro Francesco, di passare invece a un'altra grande artista che abbiamo scoperto e che a noi è piaciuta tantissimo, anche ai nostri radioascoltatori, eccellente pianista, bravissima cantante canadese residente a New York. Sì, ma prima di tutto volevo ricordare che comunque potete votare anche voi radioascoltatori quali sono i vostri preferiti per il Soundchecker Play Music Awards. Potete scriverci un'email a soundcheck@radio24.it oppure anche sui nostri social, sulla pagina Twitter o sulla pagina Facebook, potrete sia mandarci un messaggio in privato se non volete rendere pubbliche le vostre preferenze, oppure commentare in quelli che sono appunto tutte le nomination del Music Awards. E quindi saranno esposte tutte le categorie con tutti gli artisti, i brani e via dicendo in nomination. Assolutamente sì. Allora, dicevamo di Laila Bialy, che ne pensi? È molto brava, molto bella. lei potrebbe affascinante, ricevere... affascinante, una donna affascinante. Io impazzisco per la sua voce perché è naturale, poi riesce ad avere un'estensione nella vocalità senza mai urlare. Sì, veramente impressionante. Una classe impressionante. Io credo di aver visto quasi tutto quello che è presente su YouTube per vedere anche dal vivo come si comporta questa eccellente artista. Anche perché vorresti inserire lei nella categoria che ti avevo proposto io la scorsa settimana, no, come non so, la più io bella vorrei del soundcheck. No, io vorrei proprio conoscerla perché poi sono affascinato dal talento, che è la prima cosa, e quindi dovendo anche realizzare un nuovo album o mettere le mani su una produzione mi piacerebbe anche collaborare con Laila Bialy. Soprattutto mettere le mani. No, ma guarda che sei proprio calabrese oggi, ogni volta. Sarà i che termini hai l'allergia, che utilizzi che cos'è, l'antistaminico? Forse che ti fa sì, questo effetto. Sono più scemo del solito. Allora, direi di andare a Little Bird, bellissima composizione, e poi l'arrangiamento, che meraviglia, c'è di tutto in questo arrangiamento, per Laila Bialy con The Radiance Project qui al Soundchecker Play Music Award, Best Song. Let me quick, pam, pam, zero, let me make a pam. Te va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, Soundcheck. Il suono della musica. E questo sì che è un bel talento che noi vogliamo vedere dal vivo in Italia. Non mi sembra che arrivi però nei festival italiani estivi. Camila Mesa con la sua chitarra, eccellente chitarrista, nata in Cile, residente a New York, e anche una brava vocalist e compositrice, che si ritrova infatti nella categoria Best Song del Soundchecker Play Music Award di questa stagione, in compagnia di Sacha Vasandani, con il quale ha realizzato questo brano di sua composizione intitolato Away. E Sacha Vasandani, nostro ospite alcune settimane fa, ci raccontò del talento di Camila Mesa. Eh sì, è bravissima, è anche una bella ragazza, però devo dire, io la preferisco quando canta in spagnolo, rende il tutto un po' più sensuale, ammiccante. E figurati se non lo volevi dire. Bene, siamo quasi arrivati al momento dell'informazione, ci passiamo però attraverso il fisico di Gregory Porter. È un po' difficile però passare attraverso il fisico. Ex giocatore di football americano, ex vocalist e interprete di gospel. Comunque, quando ho letto la sua storia, quando ho letto che voleva fare l'impiegato a un certo punto della sua carriera perché non riusciva a sfondare, mi è rimasta, diciamo, qui proprio in testa questa storia, perché praticamente lui voleva il posto fisso, però poi è diventato una superstar a livello internazionale anche. Sì, poi ho visto i primi due album, sono andati così e così, poi ha iniziato ad avere successo e adesso, se vedi nella classifica jazz di iTunes, ci sono tutti gli album di Gregory Porter e salgono e scendono. Con Liquid Spirit, con Liquid Spirit ha venduto più di un milione di copie e ha vinto anche il Grammy Award, fortissimo. E quando vinci il Grammy Award poi la carriera è in discesa. Una grande storia quella di Gregory Porter, bellissima storia, anche una bellissima voce. Però io posso dirlo, Take Me to the Halley, che è il titolo del nuovo album, portami nel Halley, vicolo, no? Sì, dovrebbe essere vicolo. Vicolo, ecco, Take Me to the Halley non è che mi sia piaciuto granché, è sì. Proprio un Gregory Porter al 100%, ma sì, diciamo, non c'è nulla di nuovo, non aggiunge nulla rispetto agli album precedenti, è sempre Gregory Porter. Però la versione acustica di Holding On, che lui realizzò con il Disclosure Band Electric o Electronic Dance, sì. La versione acustica è proprio bella. Sì, molto bella. E la presentiamo qui al Soundcheck, non è inserita fra le best song perché l'album l'abbiamo suonato troppo poco in questa edizione. Sì, è uscito a maggio, quindi. Però ci risentiamo subito dopo l'informazione per Best Alternative Album. Sì, grandissima musica da ascoltare anche in questa categoria. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Seconda parte del Soundcheck, prova del suono di Radio 24 dopo l'informazione, sempre con Francesco Tromba e Giorgio Telesforo. Best Alternative Album per il Soundchecker Play Music Award, protagonista quindi questa categoria della seconda parte. Però direi, prima di presentare il primo album di questa categoria, mio caro Francesco, vorrei ricapitolare che cosa abbiamo presentato come Best Song. Sì, allora, la prima nomination va a Fun Slow Ride insieme ad Alan Hampton con Next. La seconda va a Laila Biali insieme a The Radiance Project con Little Bird. La terza va a Camila Mesa insieme a Sacha Vasandani e Way. Ty Dolla Sign insieme a Babyface con Solid. E poi Le King con Supernatural. Mamma mia, che bella musica! Eh sì, è difficile scegliere tra questi cinque brani. Mamma mia, che bella musica! Allora, andiamo subito a Alternative Album. Anche questa è una categoria molto particolare, perché praticamente quasi tutto l'airplay di quest'anno poteva rientrare in questa categoria. Eh sì, perché come abbiamo già detto diverse volte, ormai la tendenza di tutti gli artisti, di tutte le band, è quella di cercare questa nuova fusion, appunto, di inserire nei loro brani, nei loro album, elementi diversi, di sound diversi. Cioè, all'interno di questa categoria noi abbiamo inserito quelle band che sono appunto sia R&B sia jazz, poco catalogabili. Sì, esatto, non è difficile metterle in uno scaffale di un negozio di dischi? Allora, è il primo artista, anzi non è un artista, anche se ha un nome importante, potrebbe essere un parente di William Shakespeare? No, non credo. No, si chiamano Killiam Shakespeare, collettivo, bravissimi musicisti residenti a Filadelfia, hanno proposto il loro primo album, a noi è piaciuto tanto e adesso siamo quasi pronti per farvelo ascoltare. Sì, i protagonisti, gli animatori principali di questa band si chiamano Corey Bernard e Steve McKay. Si sono conosciuti durante un concerto di Bilal, il cantante anche di Robert Glasper, sì, Experiment. Esatto. Poi diciamo sono abbastanza inseriti nel circuito dei live, perché appunto sono anche amici di Amir Thompson, meglio noto come Questlove. Mm-hmm. Quindi sono veramente dei bravi musicisti che vengono appunto anche ingaggiati per... Non li avremmo scelti. Assolutamente, infatti molto bello questo disco, molto particolare, forse appunto non piace a tutti, però secondo me è un progetto molto interessante. Però ci ha fatto fare una bella figura e la faremo ancora una volta presentandovi questo brano dal titolo I'm Down, che troverete nel primo album di Killiam Shakespeare, la voce è quella di Noel Scales. Questo è il Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Li abbiamo conosciuti e ve li abbiamo presentati per la prima volta proprio con questa composizione dal titolo Westworld. Si chiamano The Flow Down Band, eccellente anche questa, come sempre, come quasi tutti gli artisti presenti al Soundcheck di Radio 24. The Flow Down in extremis inseriti nella categoria Best Alternative Album per il Soundchecker Play Music Award di quest'anno. Sì, perché il loro disco è uscito in realtà abbastanza di recente, neanche poco più di un mese fa. Però appunto è stato inserito perché l'abbiamo trovati molto interessanti anche dal punto di vista proprio del paesaggio sonoro che rappresentano, perché sono appunto sia una sorta di jazz elettrico mischiato con l'hip hop, anche con un po' di world music, quindi spezie diverse, sound diversi che hanno composto quello che è il suono vero e proprio di questa band, firmata anche in questo caso Rob Dope, che è una delle nostre etichette preferite, dobbiamo dirlo, perché è veramente una delle etichette più interessanti e più sperimentali. Io non credo che ce la faremo quest'anno, ma per la prossima stagione assolutamente dobbiamo intervistare Louis Marks, che è il direttore artistico presidente di Rope Dope, perché ha una visione eccezionale, una visione contemporanea di come va affrontato il mercato anche da un punto di vista sonoro. Allora, The Flow Down al Soundchecker Play Music Award nella categoria Best Alternative con Westworld. Anche questa è una band che voi potete votare utilizzando il nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it, ma anche le nostre pagine Facebook e Twitter, dove troverete comunque tutte le categorie con tutti gli artisti. E un'altra band con un disco nuovissimo che a noi è piaciuto tanto sono i Go-Go Penguin. Sì, veramente una band fortissima, a me è piaciuto tantissimo questo disco. Infatti posso dirlo, io ho votato per loro in questa categoria. Ah, sì, Lo dico, lo dichiaro. Questo disco mi è piaciuto tantissimo anche perché è molto sperimentale, non è appunto il classico disco di jazz, perché appunto sono un trio jazz della Gran Bretagna ed è formato da Rob Turner, Nick Blacka e Chris Illingworth. Sono veramente fortissimi, loro hanno firmato un contratto per la Blue Note addirittura, non avrei mai pensato. E noi li vedremo in Italia quest'estate? Non credo. No. No. Questo disco si chiama Man-Made Object e io ve lo consiglio vivamente, è uscito a febbraio. E questo è il remix realizzato da Dabree per All Rest, Go-Go Penguin al Soundcheck di Radio 24. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. E nella categoria Best Alternative Album ritroviamo anche il nuovo album del pianista Bill Lawrence, album intitolato After Sun, terzo album per lui dopo Swift e Flint, giusto? Sì, ricordiamo, per ricollegarci al discorso di prima di Rob Dope come sia una delle etichette più interessanti e più sperimentali, ricordiamo che è stata la prima etichetta degli Snarky Puppy e quindi sono stati i primi a credere in questi ragazzi, in questo gruppo di ragazzi che veniva fuori dall'università. Band nella quale milita Bill Lawrence come pianista, sempre in tournée con Snarky Puppy. Chissà quando avrà il tempo poi di andare in giro a promuovere il suo disco, che io trovo bellissimo, e nel quale figurano anche Michael League, bassista leader di Snarky Puppy, e Robert Spazzi Wright alla batteria, anche lui un eccellente musicista. Praticamente questa seconda parte è quasi dedicata all'organico Snarky Puppy, perché Bill Lawrence con After Sun si aggiudica una nomination per Best Alternative Album per questa stagione, ma anche gli Snarky Puppy, che hanno appena pubblicato il nuovo disco, ma la nomination da noi la prendono per Family Dinner 2. Sì, il nuovo disco è anche molto interessante, assolutamente dovete ascoltarlo, perché rappresenta appunto il ritorno in studio dopo anni e anni di soli dischi live o comunque con del pubblico, con dei guest importanti. Family Dinner 2, diciamo che è un po' appunto il volume 2 del Family Dinner, quindi diciamo molto simile al primo, con sì, dei guest diversi. È vero, Family Dinner, proprio il concept, la parola stessa lo dice, una cena in famiglia, e quindi su un bellissimo palco attrezzatissimo hanno organizzato uno studio dal vivo, e quindi hanno registrato tutto in cuffia con pubblico presente, tutta una serie di guest. Con il primo album, Family Dinner 1, hanno preso il Grammy Award per la performance con Lala Hathaway, e invece qui per presentarvi Family Dinner 2 andiamo a riproporvi la partecipazione di Becca Stevens, e io sono molto contento. La composizione è proprio scritta da Becca Stevens, si intitola I Asked, con Snarky Puppy al soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, anche se stiamo ultimando il nostro soundcheck, non potevo non farvi ascoltare questo brano che io ho trovato subito molto divertente, molto carino, anche con un'ironia palpabile. E poi c'è del talento, quello del pianista italiano Emilio Marinelli, che da un po' di tempo se la fa in Sudafrica, e proprio a Cape Town ha partorito questo brano dal titolo Let Zebra Play Music, lascia che la tua zebra faccia della musica. E lui ha realizzato questo brano, ha fatto musica non solo con una zebra, ma anche con Gabriele Pesaresi al contrabbasso, e la partecipazione della vocalist Melanie Scholz, che ha lavorato anche con Kurt Elling, Bobby McFerrin, e un batterista beatboxer chiamato John Michael Mawushi. Senza conoscerli in realtà avevo subito, ascoltando il pezzo, riconosciuto quello che è l'approccio di Bobby McFerrin per questo brano, appunto c'è anche una sua allieva. Bene, allora aspettiamo anche di ascoltare prima o poi, magari per la prossima stagione, l'album anticipato da questo Let Zebra Play Music per Emilio Marinelli, brano che naturalmente non trovate nel Soundchecker Play Music Award. E andiamo quindi a ricapitolare la situazione. Oggi vi abbiamo presentato nella prima parte la categoria Best Song, nella seconda Best Alternative. Ricapitoliamo tutto, Francesco, e poi andiamo a chiudere. Sì, allora ricapitoliamo gli album che sono candidati in Best Alternative. Sono allora Snarky Puppy, Family Dinner volume 2, Bill Lawrence, After Sun, bello, The Flow Down, World Speak, i Go-Go Penguin con Man-Made Object, Killiam Shakespeare. Allora, siamo pronti per chiudere. Chiudiamo con... abbiamo parlato tanto di Snarky Puppy, no? Anche del suo batterista, che pure lui poteva entrare a far parte della combriccola per le nomination, però lo abbiamo tenuto fuori. Sì, purtroppo. Anche se il disco è forte. Sì, il disco è molto bello. Il concept dell'album è molto interessante. Sì, perché in un certo senso recupera anche poi tutta la storia, l'esperienza anche di diritti civili, di lotta per i diritti civili dei neri afroamericani. E anche celebra quella che è una delle figure importantissime per la storia degli afroamericani. Stiamo parlando quindi di Martin Luther King, nella visione di Robert Spazzi Wright, meraviglioso batterista di Snarky Puppy, che ha realizzato questo album intitolato King's List, ovvero ha ipotizzato una sorta di airplay realizzato da Martin Luther King con una visione contemporanea. E quindi vi lasciamo con Wade in the Water, nella versione di Robert Spazzi Wright da King's List, un brano proprio della tradizione tipica del gospel, ma qui, come dire, il sound è potentissimo. Sì, è molto più pompato. Ci risentiamo domani sera alle 19:15 con il sound check e domani analizzeremo che cosa? Italian jazz. Italian jazz. A tutti voi buona serata da Gigi Telesforo e da Francesco Tromba.